buonasera a tutti e benvenuti alla trasmissione I Colori dell'Anima. Buonasera da Rosanna. E buonasera da Donatella. Buonasera da Monica. E buonasera da Cristina. E manca una persona. E infine da Roland. Buonasera. Ecco, buonasera, stasera stiamo al gran completo, tutti e cinque qui in radio. Di solito, come sapete, almeno i nostri radioascoltatori abituali, come loro sanno, ci alterniamo, ogni lunedì viene qualcuno di noi. Invece stasera abbiamo deciso di fare una trasmissione, come dire, collegiale con tutti quanti, visto che siamo ancora all'inizio dell'anno, e faremo un po' il punto della situazione di questa trasmissione dei Colori dell'Anima e resteremo quindi, come sapete, in vostra compagnia fino alle 22. Mi raccomando, rimanete sintonizzati con I Colori dell'Anima su Radio Alma 101.9. Allora, è questa canzone di Rino Gaetano e la canzone che ci accompagna anche da quando è nata la trasmissione I Colori dell'Anima. Abbiamo scelto infatti un piccolissimo estratto come sigla di questa trasmissione e vi ricordiamo che I Colori dell'Anima sono nati già un po' di tempo fa, ma comunque stasera appunto faremo un po' il punto della situazione. Però volevo ricordare, prima di andare avanti, che se volete chiamarci il telefono è 02 345 2656, 02 345 2656. Se invece volete scriverci, I Colori dell'Anima @radioalma.eu. colori.anima@gmail.com. Anche quello è un altro indirizzo, ne abbiamo due. Ah, quindi, ne abbiamo due. Okay. Certo, I Colori dell'Anima @radioalma.eu è quello, diciamo, da ufficio nuovo che abbiamo da qualche mese. E poi sì, colori.anima, come dicevi tu, Roland, è il classico. È il classico che abbiamo da sempre, @gmail.com. Allora, Monica, volevi fare delle domande, mi sembra? Sì, un po' come una bambina dell'elementare che chiede, ma anche Cristina, no? Penso io come che... una bambina dell'asilo. Dell'asilo, allora ci prendiamo per manie, diciamo, ma noi che siamo così piccoli le e giovani, le ultime arrivate, che guardano i grandi, ma... come è nata? I vecchi, le unghie, tutti grandi ancora i vecchi. Allora, io mi sono chiesta, mi ricordo ancora quando ho partecipato come ospite un novembre del 8 novembre 2010, esatto. Wow. E dopo così sono stata invitata a partecipare alla trasmissione, stessa procedura per Cristina. Esattamente, io sono venuta il mese di giugno. Luglio, l'11 luglio. E poi mi è stato chiesto di venire sempre. Ma com'è nata radio, cioè come sono nati I Colori dell'Anima? Dona, allora, cominciamo col dire che da questo lato della vecchiaia. No, innanzitutto ci tengo a dire che è stato bellissimo poter condividere appunto questo tempo con voi e cioè, penso che, come avete detto anche voi, siete arrivate quasi per gioco, siete state invitate e poi vi siete ritrovate catapultate in questo progetto comune. Un po' così anche il modo in cui abbiamo incominciato con noi, in realtà. Esatto. Che in una mattina invernale abbiamo incontrato Domenico Locatelli, che aveva in mente un po' questa idea della comunicazione, di cercare di raggiungere la comunità italiana a Bruxelles anche attraverso la radio, con delle proposte un po' alternative, quindi parlando di temi interessanti, temi anche insomma un po' più impegnative magari di quelle che vengono trattate in altre trasmissioni. E dobbiamo dire che Domenico è stato molto convincente. Molto convincente. Chi lo conosce sa, sì, che è convincente. E lo salutiamo questa sera perché, sì, non è qui con noi. Non è qui con noi, lo salutiamo. Buonasera Domenico. Buonasera Domenico. Ciao Domenico. Ciao. Sono sicuro che se all'occasione ci starà ascoltando. E, insomma, da lì è partito tutto. E pian piano si è formata questa squadra, anche Rosanna ovviamente c'era con noi dall'inizio. Sì, sì, sì, anch'io sono stata coinvolta in questa iniziativa che effettivamente è stata molto entusiasmante sin dall'inizio. E volevo anche ricordare che quando abbiamo fatto la primissima trasmissione il 21 settembre, noi pensavamo di stare facendo una trasmissione di prova, quindi siamo stati anche molto rilassati e venimmo qui in radio. C'era allora Roberto Antonicelli, che adesso appunto ha lasciato Bruxelles, quindi non è più in radio, e ci disse che era una registrazione per vedere come andavano le voci. Ma no. In realtà ci disse soltanto alla fine che eravamo andati in diretta, che eravamo andati in onda, quindi fu un colpo basso, come si suol dire. Ma diciamo, questo è stato quindi l'inizio, in cui primissima trasmissione, quindi 21 settembre, settembre 2010. Mentre io compivo 27 anni. Ecco, la nostra piccola compiva 27 anni, ecco. Noi ci lanciavamo nel mondo dei colori dell'anima. Esatto, e forse allora... vale la pena ricordare anche come è nato il nome sì. I colori dell'anima. Come mai i colori dell'anima? Cristina, tu che mi pensi? Mi hai tolto la domanda dalla bocca. Io che penso? Sì. Che penso di come è nato il come è nato questo. Ma questo penso nome. Che se avete avete mi si sente? Sì, se penso sì, che tu il tuo microfono rimbombi un po'. Sì. Sì. Dopo ti facciamo cambiare postazione. Adesso va per bene. Adesso va bene, credo che abbiamo più o meno risolto. Ok, sì, va meglio. Allora, io che penso? Penso che avete messo insieme le vostre menti con tutti questi argomenti più seri, più impegnati di cui parlava Ruland, e quindi in questo senso sì che è nato i colori dell'anima, che vuole parlare un po' degli uomini da un altro punto di vista, un punto di vista un po' più profondo. Mi sbaglio? Ruland, forse tu ci puoi raccontare meglio questa avventura. Io ricordo che siamo stati in brainstorming per un weekend con diverse canzoni alla mano, con diverse proposte, e Ruland sicuramente era il più creativo, ma è anche vero che nel momento in cui ci innamoravamo di un nome, di un nuovo titolo per il programma, dopo circa 10 minuti incominciavamo già a metterlo in dubbio e a cercarne altri. E quali erano le altre proposte, se ve le ricordate? È una bella domanda, devo dire, quello non me lo ricordo, però quello erano che posso amori dire facili. Alla fine l'ispirazione per i colori dell'anima mi è venuto in particolare perché... Ah, sei stato tu? Diciamo che l'idea dei colori era di Domenico e io poi ho subito pensato al mio pittore preferito, che è Modigliani, Amedeo Modigliani, e il film che parla della sua vita, che si chiama proprio I colori dell'anima. Allora quando lui per la prima volta ha detto voglio avere colori che rappresentano diversi stati d'animo, allora ho subito pensato. Quindi c'è un riferimento a Modigliani. C'è un riferimento a Modigliani. Gioisce la storica dell'arte. Cioè che tutto questo viene da un italiano, diciamo, acquisito. Sì, di origine, quindi. Per questo che l'ammirazione è tanto grande. Perché... Siamo tutti convinti che in realtà lui sia olandese soltanto di nome. Sì. Ma non di sangue. Del profondo sud Italia. Comunque credo che prima del nome finale ne abbiamo discusso di nomi. Ora mi sfuggono tutti, però. Direi che dobbiamo chiedere a Domenico, sì. Forse nella prossima puntata possiamo. Sì, magari lui ce li ha in qualche. Li ha registrati. Sì, però io ricordo che non appena uscì questo I colori dell'anima suonava subito, ci suonava bene, ci sembrava appunto già colorato in sé e ci permetteva di giocare con diverse sfaccettature anche del programma. E quali erano allora gli obiettivi di questo programma all'inizio? Allora, diciamo che prima di tutto doveva essere qualcosa che coinvolgeva il più possibile le persone della comunità. Credo che questo è stato l'obiettivo principale di Domenico. Rosanna, tu credo che puoi confermare che lui batteva molto su questo, giusto? Sì, certo, di arrivare a tutti gli italiani, a quelli a cui magari non si arriva di solito attraverso i canali soliti, quindi di arrivare a tutti coloro, agli immigrati, alle persone anche che sono qui di passaggio, e di prendere e di eventualmente di poter offrire agli italiani che incontriamo qui a Bruxelles, e di andare a vedere dentro di loro, di andare a scoprire un pochino la loro anima e trovare ogni volta un colore diverso, perché poi questa è la caratteristica della trasmissione, che a seconda dell'argomento, a seconda delle persone, ci piace così scegliere un colore. Spesso appunto lo chiediamo alle quando abbiamo degli invitati, alle persone che vengono da noi, se hanno un colore in mente che può essere collegato ad un certo argomento. E insomma, questa così, questa idea dei colori. E poi non dimentichiamo che siamo qui a Radio Alma, quindi anche giusto il legame con in Radio Alma con noi. Certo, effettivamente. E Monica, tu sei stata ospite in una delle primissime puntate. Sì. Di Colori dell'Anima. Sì, era, mi ricordo, dopo tutto, giusto? Esatto, era l'8 novembre del 2010. Color viola, esatto. E è stata una bellissima puntata, me la ricordo bene. C'era Domenico, Rosanna in regia, Giuseppe Nastri, che è anche lui un nostro abituale ospite. Sì, il nostro intellettuale d'eccezione. Salutiamo anche Giuseppe. Anche Giuseppe. Salutiamo Giuseppe, speriamo che ritorna anche quest'anno. In certo, già è tornato una volta. Quindi. E poi Sinda. Sì. E avevamo parlato di questo dopo tutto e anche della concezione della morte in diversi punti di vista. Mi ricordo Sinda, insomma, era interessantissimo, parlava di Facebook e della morte, cioè delle morti, quando muoiono le persone, cosa succede in questi network così. Mm-hmm. E io ho fatto una tesi sull'influenza dell'arte italiana a Bruxelles e avevo preso in considerazione dei monumenti funebri e quindi avevo parlato di questa influenza, di questi monumenti funebri. Sì, nei quindi cimiteri sei andata di Bruxelles. Al cimitero di Ixelles. Sono andata c'era Saint-Gilles e poi a Saint-Josse. Erano diverse cimiteri. Ho cercato di illustrare alcune così, di far visualizare alcune opere. Inizio un po' macabro, direi. Credo che dimostra come, insomma, non diciamo che i colori sono sicuramente non scontati, anche gli argomenti non lo sono. Sì. E ne abbiamo trattati diversi di temi. Sì, ma comunque non era un argomento macabro, no, era legato al primo novembre, perché era il primo novembre, nessuno di noi era in radio, e quindi legato anzi al 2 novembre, per essere precisi, al giorno dei morti. Abbiamo subito qualche giorno dopo, siamo venuti in radio, abbiamo voluto fare questa trasmissione, però appunto parlando della morte da vari punti di vista, dei defunti, perché insomma parlare dei defunti è una cosa bella, e tra l'altro mi colpì questo discorso che si fece su internet, cioè sì. Cosa succede di chi ha una pagina internet e poi non c'è più. Sì. Cosa diventa questa pagina internet? Effettivamente diventa, è capitato anche amici sono morti, diventa proprio un muro dove di tanto in tanto le persone scrivono ancora, insomma, come se la persona fosse viva. Ed è da lì che poi sono stata intrappolata tra virgolette da Rosanna, che tornando in macchina sì, dice... Infatti, se cari radioascoltatori, se ci state ascoltando e venite come ospiti in radio, fate attenzione. Sì. Perché rischiate di essere chiamati a far parte della radio, dell'equipe simpatica, come vedete, ecco. Dopo questa avvertenza andiamo ad ascoltare un altro brano. Noi non offriamo solo tutti i colori del mondo, ma anche tutti i brividi del mondo, e ascoltiamo Anoxa che parla proprio di questo. E siamo ancora qui sui Colori dell'Anima, su Radio Alma. Se volete contattarci, se volete chiamarci, siamo allo 02 345 2656. Questa sera stiamo parlando di come è nata I Colori dell'Anima e un po' della storia di come si è sviluppata. Devo dire che è interessante scoprire delle cose per noi nuove arrivate. Io sono veramente l'ultima arrivata in trasmissione. Io un po' più di un anno, ma però sono la più piccola, quindi sì. Rimani più piccola. Invece, se volete scriverci, Rosanna, vuoi ricordare? Sì, I Colori dell'Anima @ radioalma.eu. E volevo anche ricordare invece il blog dei Colori dell'Anima, che senza www, quindi radioalma.eu/I Colori dell'Anima, quindi radioalma.eu/I Colori dell'Anima, e lì troverete tutte le trasmissioni. Non sempre riusciamo a caricarle immediatamente, ma comunque cerchiamo di fare il nostro meglio, perciò tutte le trasmissioni vengono registrate e poi messe su questo sito della radio. E oserei dire che sono delle piccole perle, perché assolutamente, perché gli ospiti sono rilevanti, gli argomenti anche sono profondi. E poi non so voi, ma a me fa sempre un certo effetto, a distanza di qualche settimana, risentire la puntata e scoprire tutte le parole lanciate magari tra una frase e l'altra, o riscoprire delle sfaccettature che erano sfuggite. Sì, perché quando siamo in trasmissione è molto, parliamo tranquillamente, naturalmente, esatto. Quindi non ci rendiamo conto, poi magari ci siamo divertenti alle nostre orecchie. Soprattutto io e Cristina sì. L'ultima volta che è venuto Giuseppe Nassi ha detto: ma voi vi divertite proprio alla RA? Che dobbiamo fare? È un programma gioioso, sì. Ma proprio, allora, proprio parlando delle trasmissioni che riascoltiamo e dei Colori dell'Anima, io ho una domanda un po', spero che mi saprete rispondere. Se scappo. Allora, qual è il colore più particolare che avete avuto nelle trasmissioni in questi due anni? A parte il rosa gamberetto dell'ultima volta. Adesso vediamo che c'è uno spoglio generale. Veloce, la cartuccia degli esami. Allora, il rosa gamberetto non si dimentica. Il rosa gamberetto di riso patate in folk, sì. No, di canzone gamberetto. Di canzone gamberetto, sì, ma questa è una cosa recente. Esatto. A me ha colpito il color seppia di una trasmissione che avete fatto voi. Che colore è? Ruland. Sì, è vero, mi ricordo il colore, e non la puntata adesso. Adesso te la ritroverò e poi te lo dico, ma io mi stavo ricordando il rosa avorio. Rosa avorio, wow. Il rosa avorio devi averlo inventato tu sicuramente. Sì, sono andato in pratica, dovrebbe in teoria essere il colore della conchiglia di San Giacomo. Abbiamo parlato con la peregrina Tiziana Colletti, che ci ha raccontato del suo viaggio verso Santiago. E mi sa che c'era un colore, vabbè, una conchiglia, che colore ha? È bianco, magari giallo, rosino dentro, effettivamente un po', esatto. Un po' grigio. Poi dopo mi ha aiutato Google e in pratica usciva questo rosa d'avorio e ha detto: ecco, è questo. Insomma, che meraviglia. Quindi era una trasmissione sul Cammino di Santiago. Sì. Ecco. Io in realtà ne ho ancora due di cui ricordo. E una era un colore che abbiamo lasciato decidere agli ospiti, ed era la puntata che abbiamo fatto sulla cecità, ed abbiamo invitato due cari amici, Lilian e Frédéric Lamoury, che sono entrambi impegnatissimi nella comunità, e Frédéric, ricordiamo che è un cantante molto conosciuto qui a Bruxelles e non solo. Mm-hmm. In tutto il Belgio, sì sì. Sì sì, infatti, e con loro, diciamo, ci hanno portato un po' nel mondo, appunto, della cecità, ce l'hanno fatto conoscere da più vicino. E mi ricordo che abbiamo lanciato insieme un dibattito per cercare di dare un colore appunto alla cecità. E qual era il colore? Noi avevamo pensato ad un bianco o ad un nero, nell'opposto, e invece loro, ricordo che ci avevano detto che era un multicolore, c'erano tanti colori, tante sfumature diverse, e quindi questo ci è rimasto proprio nel cuore, direi. Esatto, sì. Lì poi devo dire, in quella puntata era proprio la musica, la voce, dell'ospite che veramente ci ha entusiasmato e che ha colorato proprio la puntata. È stato veramente bello. Dovremmo. E forse sì, sullo stesso piano vi ricordo che forse sarà che mi appassionano molto tanti colori messi insieme. Un'altra puntata che vi ricordo con piacere è quella, appunto, un altro colore, quello dell'arcobaleno. Anche a me mi ha colpito quello. Che appunto è stato era nella puntata quando abbiamo intervistato il cosiddetto Momo. Era la puntata sull'immigrazione e abbiamo appunto intervistato non ricordo nemmeno più quale fosse il nome originale di Momo. Mohamed, appunto, che però è un pizzaiolo di origine algerina, cresciuto a Napoli e trasferitosi a Bruxelles da qualche anno. Mix. Ed è diventato popolarissimo tra gli italiani e non solo, perché appunto fa una pizza veramente buonissima. Ma è stato veramente un cammino fantastico con lui, perché ci ha fatto ripercorrere dalle origini, dai tempi in cui appunto viveva in Algeria con la famiglia, passando per Napoli, dove ai tempi in cui è arrivato era, diciamo, mi ricordo ancora che diceva che era l'unico ragazzo straniero nella scuola, e quindi ci ha fatto rivivere un po' tutta la complessità dei fenomeni di integrazione. E ci ha fatto vivere anche le prime sensazioni nel momento in cui è arrivato a Bruxelles, in una città molto, diciamo, multiculturale, e dove nella multiculturalità i vari gruppi hanno comunque una comunità molto ampia. E quindi ricordo che veramente sì, è stato un arcobaleno anche di emozioni. E poi bisogna dire che Momo, non ho mai conosciuto un napoletano con più amore per Napoli che lui. È veramente una cosa spettacolare, è innamoratissimo di Napoli, anche se sta qui a Bruxelles da qualche anno. Sì, insomma, ma Napoli è una città. Un pezzo di cuore l'ha lasciato lì. O la ami o la odi. Napoli è cova. C'è una via di mezzo. Rosanna, invece tu ti sovvieni di qualche colore in particolare? Ti sovvieni di me. Ma io adesso ho deciso. Seppia, che colore è? No, era una trasmissione di Ruland e Donatella, ma non mi ricordo che cos'era. Si parlava era di. Io l'argomento. Un'occhiata. No, però ho deciso che quest'anno voglio essere un po' più fantasiosa, perché l'anno scorso sono rimasta sul blu, verde, insomma, colori banali, colori base. Adesso invece no, quest'anno voglio suggerire dei colori più interessanti. Le sfumature dell'anima. Ecco, infatti, perché i colori sono infiniti, mica sono solo blu, verde, giallo, bianco e nero, no. C'è dipende molto anche di da più. Come si mescolano. Infatti, esattamente. Diciamo che ti vediamo già vestita di rosso e questo promette bene, con i colori forti. Intensi, certo. Ricchi di emozioni forti. No, è sempre a proposito di colori semplici, di colori base. Tra le varie trasmissioni dell'anno scorso ne vorrei ricordare in realtà un paio, in cui c'è stata ospite qui in radio Silvana Pancera. Ah, sì. È una persona che ha lavorato come sociologa, che si è impegnata moltissimo per la comunità degli italiani che vivevano qui in Belgio tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 90, e poi è rientrata in Italia, quindi adesso vive in Italia, e tra l'altro è stata fra le persone che hanno fondato l'associazione che si chiama CASI, che è il Centro di Azione Sociale Italiano Università Operaia. E Silvana Pancera però era venuta in quanto ci parlava delle beghi, perché chi vive in Belgio conosce i beguinage, in particolare quello di Lovanio, che è uno dei più conosciuti, e sa che in questi luoghi vivevano delle donne che spesso vengono considerate un po' come delle pettegole, delle zitelle. In realtà queste donne erano delle donne molto dinamiche, se teniamo conto che tutto questo succedeva nei secoli scorsi, quando quindi per le donne non c'erano molte scelte: o diventavano suore o si sposavano, e magari anche spesso contro la loro volontà. Mentre invece, oltre a queste due categorie, esistevano anche le beghine, che erano delle donne che vivevano in un certo qual modo, in un modo un po' religioso e in una specie di convento, ma non era un convento, perché erano proprio questi beguinage, questi luoghi, cioè, molto belli, dove comunque loro potevano esercitare la loro libertà, avevano una certa libertà. E quindi Silvana ci ha parlato di questo argomento, e quindi quella sera il colore, mi ricordo benissimo, che fu il rosa. Sì, io ricordo sì. Che è stata una puntata veramente interessante e personalmente mi ha fatto scoprire un mondo di cui non ne sapevo assolutamente nulla, non avevo mai sentito parlare. Certo, le beghine vengono considerate, come dicevo prima, proprio delle zitelle. Delle zitelle. Anche io non avevo mai sentito parlare di questo, e questa trasmissione è stata per me la prima trasmissione nello staff di Radio Alma. Sì. Stavo con Rosanna in regia, mi ricordo. Sì, sì. Io invece non so se vogliamo lanciare già adesso una canzone o posso continuare ancora. Sì. Niente, volevo ricordare invece durante l'anno un'altra ragazza che mi ha affiancato e che invece è ritornata in Spagna, ed è Carmen Ramos. Salutiamo anche Carmen. Che la salutiamo. Ciao. tanto. E è andata in Spagna a cercare fortuna, ma lavora per una televisione spagnola adesso. Ah. E, complimenti. Sì, e quindi lei mi ha, cioè, abbiamo fatto questo percorso insieme all'inizio dell'anno scorso, dell'anno scorso, e sicuramente ricorderei le puntate su 150 anni d'Italia, in ogni volta insomma un argomento diverso: cultura, arte, sport, musica. Ed è stata davvero bella. Mi ricordo le tre puntate, avevamo diviso in 150 anni in tre parti, e tutte e tre le parti sono state molto belle. Una volta abbiamo parlato, c'erano come invitati allora Marco e Andrea, e ci siamo divertiti. Andrea è stato qualcuno, una persona che ci ha fatto un po' rivisitare anche l'Italia degli ultimi, nella seconda parte degli anni 50 in poi, a livello storico, politico, è stato interessante. Poi Marco con lo sport, anche lui, e Ilaria, questa mia amica, che invece ha saputo proprio spezzettare l'arte del 1900 e raccontarcela in modo molto semplice. E un'altra, abbiamo avuto questa chiamata telefonica di Maria Chiara Pazzi, appassionatissima di film, e anche lì ci ha fatto proprio vedere questi film e la storia del cinema e della televisione italiana, con diverse come dire, anche diversi legami politici e non, ecco, però una cosa molto molto appassionante. Un'altra cosa a livello sociale che mi ha colpito è appunto in occasione dell'anno del volontariato, l'anno europeo del volontariato, mi aveva colpito come si chiama, Daniela, che era stata invitata per parlare dell'associazione Convivial, e quindi abbiamo in particolar modo parlato dei rifugiati politici, ed era un qualcosa che personalmente non avevo a conoscenza, non sapevo, ed è stata una realtà che davvero mi ha proprio aperto gli occhi, ecco. Io invece ricordo con piacere un'altra persona che non è più a Bruxelles, il nostro ospite Angelo, che non mi ricordo un altro ospite che ha parlato con così tanta passione di un argomento. Nel suo caso era lui siciliano, ci parlò della mafia, il colore della puntata era nera, per proprio sottolineare che non è quel fenomeno cinematografico, insomma, da noi spesso è vissuto come tale, purtroppo, invece è proprio un fenomeno tra intimidazione e favore, e non c'è niente di bello, e devo dire che Angelo, tra l'altro, che fa parte della rete antimafia Libera, un'organizzazione molto interessante, libera.it, se volete cercarla su internet, e insomma è un ragazzo appassionato che ha a cuore il suo territorio e che ha lasciato Bruxelles per avvicinarsi a casa. Adesso vive a Roma, e salutiamo anche Angelo. Ciao Angelo. Ciao Angelo. E allora passiamo al prossimo brano, sono le 21:38 sui 101.9, sempre I colori dell'anima, restate con noi. Bentornati sui colori dell'anima, 101.9 Radio Alma. Siamo ancora in studio con appunto Rosanna, con Cristina, Monica, Ruland e Donatella. E abbiamo fatto un po' una carrellata di quello che è stato questo anno insieme, con queste perle che vi abbiamo regalato, che ci siamo regalati sulle diverse trasmissioni. E assolutamente, se ci volete chiamare non esitate, se volete anche partecipare con noi a, come ospiti a una o l'altra trasmissione, chiamate, il numero è lo 02 345 26 56 02 34 5 26 56. Se ci volete invece scrivere, la mail è icoloridellanima@radioalma.eu oppure la vecchia colori.anima@gmail.com. Scrivete. Gli diamo anche l'indirizzo di casa o no? No, ecco, assolutamente questa trasmissione e tutte le altre che abbiamo citato le potete trovare sul blog, quindi è radioalma.eu, senza www, e entrate direttamente nel blog. Perfetto. Detto tutto? Eh sì, non mancava nulla. Non mancava nulla. Precisissimo. Però io vorrei anche dire una cosa. Abbiamo fatto una carrellata un po' anche dell'anno scorso, 2011. Io con Carmen, adesso il nuovo anno è iniziato con Cristina. Yeah! Yeah! Allora, c'è Cristina, c'è una trasmissione di cui hai un ricordo speciale tra quelle che hai fatto? Sì, c'è una trasmissione, quella che la trasmissione sulle invenzioni, sulle invenzioni italiane. E, perché? Perché per i 150 anni d'Italia siamo andati a ritrovare tutte le invenzioni più particolari ed è stato molto divertente perché Monica mi ha fatto un sacco di domande. Non c'era ospite in quell'occasione. No, però ha funzionato, io ho funzionato come cavia perché per esempio ho scoperto chi ha inventato la macchina del caffè. Che non è stata inventata a Napoli, ma è stata inventata nel nord dell'Italia. Bialetti. Sì. Oppure abbiamo parlato anche delle... Allora, Monica ha presentato le invenzioni al maschile, quindi tutti questi oggettini, bricolage. E io ho presentato le invenzioni al femminile. Quindi tutte le grandi gioielate. Evidentemente le invenzioni femminili sono molto recenti, perché nel passato le donne stavano sempre a casa, quindi non avevano un modo di inventare, almeno non si può sapere. E quindi abbiamo parlato di tutte le donne impegnate nella tecnologia, che fanno ricerca e che fanno invenzioni in biologia, premi Nobel, eccetera. Quindi è stato molto molto interessante. E adesso vi faccio io la domanda. Voi non sapete, magari la vostra suola delle scarpe è timbrata, è è timbrata? Vado subito a vedere. Togliamoci tutti la scarpa. Attendo la nostra parte. Vibram. Che cos'è? C'è tipo un targhettino giallo a esagono. Sì. Scritto Vibram. Tu sapete? Ce l'ho! L'hai visto! Esatto. Allora? Ebbene. Chi l'ha inventato? Chi l'ha inventato? Vibram, perché è un certo Vittore Bramani. Ush. E chi è questo Vittore Bramani? Da dove viene? Soprattutto da dove viene? Dal mio paesello di 300 abitanti. Divenuto famoso per la suola delle scarpe. Ma tra l'altro il legame era che questo Vittore Bramani era anche una celebre, insomma, una celebre guida alpina, che faceva anche da guida al re Alberto. Wow. Ma te qua, devo dire che insomma il nome, ecco, non l'avrei mai detto che erano suole di scarpe. Esatto, oppure la Geox, un'altra, insomma, un altro esempio di scarpa che respira, un altro esempio di invento italiano. Facciamo troppa pubblicità però, esatto, facciamo pubblicità occulta. Menzionare altre due marche di scarpe. No, io invece, l'avete detto voi prima, che l'anno scorso abbiamo parlato di volontariato. Sì. E infatti in varie occasioni abbiamo invitato degli ospiti che si occupano di volontariato, ma mi fa piacere ricordare in particolare una dedicata al Poverello, che è una, diciamo, una associazione senza scopo di lucro che si occupa di persone che non hanno una casa, ma che soprattutto non hanno da mangiare, e sono venuti in studio studio Tony e Mark, un italiano e un belga, che lavorano come volontari presso il Poverello, facendo varie attività. In particolare Mark fa il barista in questa, al Poverello, perché appunto anche se le persone sono povere ma hanno diritto ad un bar, e hanno, ci hanno parlato proprio con un grande entusiasmo, una grande voglia di fare, e come spesso capita le persone che si occupano di volontariato hanno sottolineato che alla fine erano quasi più contenti loro, sentivano che ricevevano moltissimo in questo servizio che facevano, dedicandosi appunto alle persone che non hanno mezzi di sostentamento. Ed è stata quindi una trasmissione veramente che ho molto apprezzato, perché mi ha permesso di conoscere questa associazione di cui avevo sentito parlare ma che in realtà non avevo mai, diciamo, toccato con mano. Quindi è stata una bella trasmissione. Io appunto volevo ricordare anche un'altra trasmissione, un'intervista che avevamo fatto io e Carmen su ad una signora che lavora a Medici Senza Frontiere, un'intervista telefonica molto interessante, perché questa signora si occupa di appunto Medici Senza Frontiere, ha raccontato casi di soccorsi all'ultimo minuto, di casi insomma abbastanza da fiato sospeso, ecco. Quindi è stato molto molto interessante. Sì, e forse pensavo che vale la pena anche ricordare la puntata con Vittorio Campanelli, un economista che è stato impegnato per diversi anni al Fondo Sociale Europeo, con il quale abbiamo discusso a lungo del problema della disoccupazione e toccando anche i temi di giustizia globale e decrescita. Il colore era un colore abbastanza triste, un viola scuro, che doveva ricordare in qualche modo il momento triste che passano tutti coloro che non riescono a trovare un lavoro. Esatto, e diciamo che Vittorio, con i suoi tanti anni di esperienza, era soprattutto anche preoccupato per le prospettive o la mancanza di prospettive che si trovano davanti ai giovani di oggi, e insomma il bisogno veramente di costruire un modello alternativo, di non fare soltanto delle piccole correzioni al nostro modello economico e soprattutto anche al mercato del lavoro, ma di ripensare proprio questo modello. Devo dire che è stato una bella puntata con una persona molto colta e che aveva tanto da condividere. Eh sì, vi ricordiamo infatti che durante la puntata avevamo citato a più riprese dei passaggi del libro Un'economia giusta di Berselli, che appunto affronta queste tematiche e guarda proprio alla questione del cambiamento del modello economico in corso. Io vorrei ricordare ancora qualche trasmissione. La prima è la trasmissione in cui sono arrivata come ospite con Monica, sì. E la ricordo con molto piacere, c'era anche Ruland in questa trasmissione. Giusto. Sì, la ricordo con molto piacere perché è stata una trasmissione molto musicale, culturale. Abbiamo parlato delle tradizioni, della musica. Era sugli eventi in Italia. Sì, e fiere sagre e musica popolare musica italiana. Popolare, e abbiamo parlato della pizzica, che sì, è la danza tipica della mia terra, e quindi niente, la ricordo con molto piacere, e poi da lì è nata questa piccola briciola che poi mi ricordo che quella puntata faceva venire tanta voglia di viaggiare. Noi eravamo qui in studio, era estate, non mi ricordo era il giorno esatto, e parlavamo di eventi che erano insomma a destra e a sinistra, su e giù per l'Italia, e noi qui in studio caldo. Vabbè, diciamo che per riscaldarci in questa serata piuttosto fredda potremmo proporre una pizzica alla fine della puntata per riscaldarci tutti. Viaggiare con la mente. Oppure forse un riso patate in forno. Ecco, anche quello, perché ne abbiamo avute altre di puntate musicali. Ci sono state altre puntate musicali, sempre con Monica, una in particolare, quella sul jazz sperimentale acustico, in cui abbiamo invitato Angelo Gregorio, che avete sentito spesso negli ultimi tempi, effettivamente è diventato nostro ospite abituale. Esatto, e lo sentirete ancora, magari non come ospite questa volta, ma sentirete passare la sua voce, le sue e i suoi suoni buoni per la radio. Esatto, è l'acquisto del mercato invernale, diciamo. Ecco. Ci sono tante sorprese quest'anno. Tante sorprese quest'anno che ci aspetteranno, che vi aspetteranno. Sì. E appunto sì, il jazz. Abbiamo percorso un po' la storia del jazz, abbiamo scoperto che il jazz è una musica un po' pericolosa per i ragazzi che le ragazze non dovrebbero mai frequentare. Esatto. E poi siamo arrivati fino alle sperimentazioni che Angelo fa con il suo sassofono smontato, direi. Esatto, molto particolare con la tecnica loop, quindi con la loop machine, è come praticamente se un'orchestra suonasse e non soltanto il sax. Ma in realtà si vede soltanto lui. Esatto, esatto. E poi un'altra volta abbiamo invitato lui, Carla, per il gruppo, perché lui fa parte anche di un altro gruppo che si chiama Calzone Gamberetti. Sì. Ricordiamo, questa è la puntata del Rosa Gamberetto. Esatto. Ricordiamo tra l'altro che al 9 di febbraio c'è un loro concerto non mi ricordo come si chiama, mannaggia, ma sicuramente se andate a vedere Calzone Gamberetti sul loro blog trovate tutte le informazioni, vicino alla piazza del Sablon. Allora, sono le 21:53 e ci stiamo avviando alla fine della trasmissione di oggi, 30 gennaio, che abbiamo voluto dedicare così a un po' di... abbiamo voluto ripassare questo anno e 4-5 mesi in cui siamo stati con voi con i colori dell'anima. E naturalmente abbiamo cominciato da poco questo anno e sarebbe anche forse carino fare qualche programma. Abbiamo detto che questo è l'anno dedicato all'invecchiamento attivo e alla solidarietà fra generazioni e quindi ci piacerebbe affrontare un po' questo argomento. Lo vorremmo affrontare anche da diversi punti di vista. Ci avete già pensato, cari colleghi di Radio Alma dei colori dell'anima? Ma guarda, ci sono queste tematiche sicuramente, questa tematica, e poi la vorremmo comunque declinare su tre filoni, quindi diciamo su tre rubriche, come abbiamo chiamato, una rubrica diciamo italiani a spasso per il mondo, quindi dove c'è cultura, arte, politica, sport, religione, e dove chissà magari si inviterà l'uno o l'altro ospite a parlare proprio di questa tematica, magari appunto a me mi viene in mente anche un Giuseppe Nastri che è cioè, super pensionato ma di una cultura, finalmente quando è andato in pensione aveva detto finalmente posso leggermi la Treccani di più. Cioè. Ma infatti qui tocchi proprio un tasto interessante dell'invecchiamento attivo, perché sembrerebbe che questa parola attiva ha già in qualche modo toccato la sensibilità di molti anziani che mettono in discussione questa associazione, perché sembrerebbe che insomma non è una cosa nuova, che ad un certo punto l'Unione Europea una mattina si è svegliata e ha detto facciamo invecchiare in maniera attiva i nostri cari anziani. Quindi come tu proponevi è sicuramente in cantiere l'idea di invitare una serie di persone che ci racconteranno un po' della loro vita e ci faranno scoprire quali sono le attività, quali sono appunto i programmi e le esperienze da condividere a quell'età. Esatto, magari appunto nella rubrica Insieme per un mondo migliore magari potremo trovare l'uno o l'altra persona che cosa magari dopo essere andato in pensione ha deciso di aprire per esempio una gelateria in Cina. E naturalmente resta comunque valido anche il tema del volontariato, certo. Perché ci sono invece persone anziane, magari molto anziane o malate, che hanno bisogno di aiuti di vario genere, e in questo ci saranno e ci sono varie associazioni di volontariato che se ne occupano, quindi questo è anche un altro aspetto. E quindi direi un evviva Bruxelles, la nostra terza rubrica dove parleremo anche di come è vista Bruxelles per i bruxellesi, per le persone che qua di passaggio ci sono e per uno o l'altro motivo, ecco. E in questa rubrica proveremo a fare anche una sperimentazione, proprio perché Bruxelles è la città internazionale per eccellenza, proveremo a fare dei collegamenti tra le varie culture proveremo a invitare degli ospiti che magari non parlano italiano o che ci parlano della loro cultura, di altri paesi. Esatto. Sì, infatti Cristina ci sta portando proprio verso un filone interessante, perché questo programma Colori dell'Anima e quindi anche le varie rubriche hanno comunque per obiettivo quello di aprirsi al mondo che ci circonda, e quindi anche se la nostra trasmissione si fa in italiano, non vogliamo appunto in qualche modo identificarci nel solito gruppetto di italiani che si ritrova all'estero, quindi sicuramente quella di aprirsi anche altri ascoltatori ed amici sarà non può che farci bene. Esatto. Sì. Allora, questo mi sembra un invito a voi tutti che ci ascoltano, insomma, di seguirci, certo, di magari proporre anche idee, insomma, i contatti li avete avuti già più volte. Io ricorderei la mail, se ci volete, ecco, scrivere, vai, Monica, la tua. I colori dell'anima @radioalma.eu oppure colori.anima@gmail.com oppure il sito internet radioalma.eu/ i colori dell'anima, dove troverete insomma tutte le puntate con un po' di testo, una bella foto e il podcast per riascoltarlo quante volte volete e insomma mandarlo ai vostri amici, insomma non lo so, diffondete la parola. Va bene, credo che siamo arrivati proprio alla fine della trasmissione di oggi. Ringraziamo tutti i radioascoltatori che pazientemente hanno tenuto la radio o internet, perché appunto adesso la radio si può ascoltare anche via internet sulla frequenza 101.9. E ciao dall'equipe dei Colori dell'Anima, e cioè da Rosanna, da Donatella, da Monica, da Cristina e da Roland. Ciao ciao. Ciao. Ciao. Ciao.